sabato del villaggio. E come sempre a quest'ora il sabato del villaggio lascia il posto a RadioTube. Nel nostro meglio di abbiamo scelto di riascoltare insieme la puntata del 19 dicembre. Allora diamo la linea a RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, la nostra sigla con le campanelle, quella di Natale. Ancora buonasera Daniele Bellasio. Buonasera Marta Cagnola, et Marta Cagnola, et di Bellasio, hashtag RadioTube. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di quello che è successo nello sport, quello che è successo è successo a Radio 24. Ma è una cosa incredibile. Abbiamo battuto la BBC. Ne parleremo, stiamo intestando un successo nostro. Insomma, è casa. Certo. Però abbiamo parlato nelle due ore del sabato del villaggio di TV, perché io l'ho confessato, sai, Natale si guarda la TV. Anche dai, divano, sì, 25, copertina, qualche cinema. Sarai favorevole a quello, no? Sì, devo dire, io vado talmente tanto al cinema nel mio periodo lavorativo che per me non è, insomma, guardi la TV durante le vacanze, mentre gli altri vanno al cinema. Sì, gli altri vanno al cinema. Non lo so, io già penso, guarda, non vedo l'ora di mettermi lì un po' tranquilla a guardare un po' di TV con i nipoti, con i parenti, ma anche così, anche solo in sottofondo. Un po' di serie TV. Sì, ma non potrai guardare la serie TV che invece arriva un po' dopo. So che tu la stai aspettando tanto. Perché combacia, no, con la campagna elettorale presidenziale. Infatti lui in realtà non è una serie TV, lui veramente si è candidato. A parte che la realtà a volte è per certi versi. Sì, ma infatti, allora, quasi è moderato lui. Sentiamo di chi stiamo parlando per non disorientare l'ascoltatore, che sa benissimo che da noi deve essere sempre un po' disorientato. Eccolo qua. It's a new day in America. Today, more people will go to work, return home to their families, and sleep more soundly than ever before. All because one man refuses to settle, putting people before politics. That man is Frank Underwood. America, I'm only getting started. America, ho appena iniziato. Sono Frank Underwood. Non è Donald Trump. Però sai che ha creato stupore, perché l'hanno messo anche durante il dibattito, che c'è stato il dibattito repubblicano. Ed è Frank Underwood, House of Cards. Esatto. E lo spot di House of Cards è esattamente uno spot, perché per l'ospite di dopo, è purissimo per la campagna elettorale americana. Quindi Frank Underwood arriva, torna Frank Underwood e House of Cards. Poi c'è questa ambiguità, non si capisce chi è il candidato. Sì, io sono qua, ma a te non piace? Ma Claire sì, dovrebbe, no? Ma sì. Quella sana cattiveria. Sì, decisamente. Dalla faccia si vede. Sì, la sana non cattiveria. Non la potete vedere come la sana cattiveria. La sana cattiveria. Fa parte di... Invece è successa una cosa importante. Allora, ma sai che non so se solo per gli addetti ai lavori, ma in generale secondo me è il segno di un grande cambiamento. Sì, ecco, diciamo che per ora forse più per gli addetti ai lavori, ma l'incontro scontro tra televisione e social network, noi ne parliamo da sempre, avvenuto durante una puntata di Report. Ne abbiamo un pezzettino per entrare in atmosfera. Mostriamolo. Ecco qua. Questa è la RUR. In 20 anni è diventata questa cosa qua. Prima era la zona più inquinata d'Europa. Come siamo messi invece noi con Marghera, Priolo, Gela, i polichimici che adesso Eni sta dismettendo, mentre la prima vendita è stata fatta nella Repubblica Ceca l'anno scorso. Allora, domenica sera, Report di Milena Gabanelli ha parlato di Eni. Sì. Sappiamo qual è lo stile di Report, inchieste anche molto aggressive, molto decise, ma al di là dell'oggetto del contendere, che è talmente complesso che io non lo solleverei adesso in RadioTube in qualche minuto. Sì, esatto. In qualche minuto. A me interessa sapere cos'è successo dal punto di vista della comunicazione, è troppo poco. Ma dunque, ha un format report, no? Che non prevede il cosiddetto contraddittorio in studio, quella cosa che invece accade nei talk show. È un'inchiesta registrata. L'ENI, che era la grande azienda coinvolta da questa inchiesta, inchieste che a volte, diciamolo, sostengono una tesi, sono un po' protese a raccontare una storia con un finale un po' predefinito. E nel bene e nel male. Certo, beh, insomma, diciamo che quindi, essendo registrato. Esatto, essendo registrato c'è questo problema. Allora, l'ENI ha chiesto il contraddittorio, la Rai 3 sui social con il suo direttore Andrea Vianello ha risposto: ma esiste un format che non prevede il contraddittorio. Allora, cosa è successo? Che ENI, attraverso il suo ufficio di comunicazione, ha fatto il contraddittorio in diretta, ma su Twitter. Quindi, su Twitter, mentre andava l'inchiesta di Report, venivano pubblicati dei link al sito di ENI che raccontavano una verità più vicina a quella che voleva raccontare l'azienda. Una specie di contraddittorio dalla TV si è spostato in mezzo. Sì, ecco, un po' complesso. Molto complesso da capire, però è la dimostrazione del fatto che resta molto importante la TV, può diventare molto importante il social network, si incontrano e si scontrano. Poi alla fine io sostengo che il lettore, come il navigatore su internet, è intelligente abbastanza per farsi la sua opinione leggendo il contraddittorio che avviene attraverso più mezzi di comunicazione. Tu che dici? Devo dire sì, e sì, è interessante il fatto che si moltiplichino i mezzi di informazione, sì. Il lavoro diventa molto più complesso, più perché a questo punto dobbiamo guardare report, nel frattempo leggere risposte del protagonista dell'inchiesta e le controrisposte. Stiamo diventando tutti dei motori di ricerca, intelligenti. Un lavorone. I giornalisti lo devono essere. Un lavorone, speriamo. Complesso. Ma per insomma, chi è abituato a seguire la TV usando Twitter, ormai lo fa. Ormai sui social network si fa tutto. Per esempio, a Radio 24 sapranno, perché siccome ascoltano tutti la Zanzara, sai cosa è successo, certo, no? Vittorio Sgarbi è stato male, però adesso sta bene. Però adesso sì, si è ripreso. Ha appena postato su Facebook l'elettrocardiogramma. Beh, lui scrivendo sotto tutto bene, ormai proprio ogni ormai limite. Lui sta vivendo tutto in maniera social. Però gli mancava la televisione, no? Mm-hmm. E quindi? Allora, lui ha postato subito un video. Sì, cioè, assolutamente. Ma chi gliel'ha fatto poi soprattutto? Vabbè, lui ha rassicurato tutti in questo modo. Però vi ero detto, se lei non si fosse fermato, entro mezz'ora sarebbe morto. Quindi ero vicino alla morte e non ho avuto la consapevolezza, perché sarebbe interrotto il flusso di sangue dalla coronaria e io, non fermandomi, sarei morto. Tanto più che siamo arrivati anche dei battiti molto bassi del cuore mentre mi operavano. Quindi questa è stata l'unica cosa che è scampata, che questa volta il rischio di morire è più forte. Sono stato veramente vicino a morire dopo mezz'ora, mentre negli altri casi è la sensazione che tu hai. E quindi andremo avanti, insomma, poi tornerò a rappresentarmi. Allora, intanto un in bocca al lupo a Vittorio Sgarbi, perché ci ha fatto un po' preoccupare. Perché Vittorio Sgarbi. Certo. E poi, davvero, ormai, allora, sui social viaggiano le reazioni alla trasmissione TV, i bollettini medici, qualunque cosa. Mi è piaciuta molto la frase, tornerò a rappresentarmi. Cioè, guarda che è una roba, un sofisma straordinario. Però guarda, riesce che a essere, comunica la voce anche un qui po' stanca, potremmo, potremmo aprire un dibattito, Vittorio, sul fatto che i social network siano una grande autorappresentazione. Ma non lo vuoi aprire ora? Ma non lo voglio aprire perché A sarebbe un B, c'è il traffico, B magari gli ascoltatori sarebbero legittimamente annoiati da questa elucubrazione. Ci sono le 17:14 minuti, sì, quindi pensa quanta gente in questo momento in macchina. Qualcuno sta partendo per le vacanze, quindi Babbo Natale usa internet, secondo me. Il Babbo Natale di cui parliamo dopo il traffico usa internet? Beh, il Babbo Natale di cui parliamo dopo fa molto di più. Fa molto di più. E tra poco lo scopriremo perché. Abbiamo davanti lo stesso libro. Sì, I Fratelli Christmas. Ne parliamo tra pochissimo. Al momento davvero del traffico. Non quello delle slitte, quello delle macchine, delle strade, dell'autostrada. Ecco qua. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Radio Tube. Non abbiamo ancora dato i nostri account di Twitter, @MartaCagnola, @DiBellasio, il numero per gli sms e per i WhatsApp è 349-238-6666. E io posso salutare Carlo da Latina? Sì, certo. Perché Carlo da Latina ci ha scritto: la vostra compagnia il sabato è bellissima, sono traduttore, siamo sempre io e il computer. E sabato anche voi. E noi. Carlo, cosa stai traducendo? Adesso sono curiosa. Scrivecelo via WhatsApp. Sì, Carlo, scrivicelo, sì, via WhatsApp, 349-238-6666. Io comunque sono li avevo dati, ma non ti contraddico, perché hai sciolto i capelli in una maniera molto minacciosa. Molto minacciosa. È vero. Li avevo dati, ma adesso. Ma ero preoccupata perché non riuscivo a stappare la scaletta, quindi tu parlavi ma non ti stavo ascoltando. Ah, beh, non è la prima volta. Sono 3 anni che fai così. Comunque. Sopravvivenza. No. Allora, sì, quindi... dai. Sia... Parliamo di Natale, dobbiamo parlare di Natale. È Natale. Siamo tutti più buoni. Sì, quasi, tu meno. Quasi tutti sono più buoni, tranne Vi Mercate. Ma noi invece parliamo di un libro bellissimo. Sì, ce l'abbiamo davanti tutte e due. Sì, una favola contemporanea, dunque, per tutte le età. I fratelli Christmas con la K. Cioè, con la detto K. Con la K come comunista. No, sei... come comuni, sì, no, perché adesso ne parliamo con il nostro ospite. Uno dei due babbi natali, non so se si dica così, che poi insomma, del libro, è un po' comunista. L'ho pensato anch'io, sai che questi eguagliatori... Vabbè, non dobbiamo svelare troppo, ce l'abbiamo in diretta con noi l'autore dei Fratelli Christmas, edito da Einaudi, Giacomo Papi. Buonasera Giacomo. Buonasera a voi, ciao. Senti, abbiamo fatto già tutta questa analisi politica di questi, no, di l'ho questi fatta Fratelli io, Christmas. Mi assumo le responsabilità. Allora, in copertina di questo libro, di questo racconto di Natale, non c'è un Babbo Natale, ce n'è due. Cioè c'è il Babbo Natale, quello, no, un bello cicciotto con la barba bianca, e c'è un Babbetto Natale smilzo accanto a lui. Ma quanti Babbi Natale ci sono? Due? Con capelli neri e barba nera. Due. Guardate la bisaccia, i due sacchi, quello di Babbo Natale è bello pieno, mentre invece quello vero di suo fratello, perché l'altro Babbo Natale, quello magro e alto, capelli neri e barba nera, è suo fratello minore, è tutto un po' smilzetta e sgonfia. È vero, la, è vero. Il disegno di GP è un disegno molto bello. Però ne ha due, questo è vero. Quello di Babbo Natale non si vede dietro. Questa è una storia, sì, c'è un po' di K. Tra l'altro, la cosa che mi fa ridere è che i Fratelli Christmas nelle ricerche di Amazon ha superato i Fratelli Caramazzo. Se tu fai Fratelli K appare prima Fratelli Christmas. Accidenti. Questo è molto grave, anche perché i Fratelli Grimm sono proprio indietro, non so se i fratelli Van de Kerkhoff sarebbero davanti, però insomma i fratelli Marx in questo caso però comunisti non sono quelli comuni, sono quelli, no, ma con la K deve essere ok, sì. Questo non vuol dire che però insomma i Karamazov, no, allora però parliamo un po' di questo fratelli Christmas, spieghiamo un po'. Allora, cosa Babbo Natale, spieghiamo quello che si può, ecco, Babbo Natale. Sì. raccontaci innanzitutto è una storia che ho raccontato una notte per la vigilia di Natale ai miei due figli, per cercare di insegnargli, insomma, che è Natale, belli regali, però insegnargli qualcosa sull'uguaglianza. Mi è venuto in mente che Babbo Natale era malato, grande allarme, la vecchia stava male, aveva la febbre molto alta, e quindi non si sa chi consegna i regali quest'anno, e si trova la soluzione in estremi, si chiama il fratello più giovane, che però con cui Babbo Natale aveva litigato molti anni prima per motivi politici. Vedi, perché questo fratello più giovane è convinto che almeno tra i bambini ci debba essere l'uguaglianza, e che quindi i bambini debbano ricevere regali più o meno comparabili. Non sia giusto che un bambino riceva 800 regali e un altro 2. Per cui quando parte al posto di Babbo Natale per il viaggio intorno al mondo nella slitta, chiama suo amico Efisio Foils, che è il nano picchiatore che lo aiuta a sgominare i cattivi, e comincia a ridistribuire i regali, togliendone un po' a chi ne ha troppi e dandone un po' a chi ne ha pochi. Questo provoca, immaginate, un po' di sconquassi, anche perché c'è un miliardario cattivissimo chiamato Panicus Flinch, che ha comprato tutta la Grecia per farci un pasto gioco, e insomma, e da lì nascono un po' di avventure e anche un po' di problemi. Il problema... ho fatto questo, tu dicevi prima comunista, no? Un po' scherzavi, però insomma, io ho chiesto a mio figlio per capire, ho detto: ma come si chiama secondo te, prima di scrivere il libro, uno che vuole che tutti abbiano le stesse cose? E lui mi ha detto: eguagliatore. E quindi è un eguagliatore, perché devi pagare i copyright a tuo figlio, sì, assolutamente. Cioè, quindi più regali quest'anno, assolutamente, lui. Sì, più regali, e quindi bilanciamo l'uguaglianza. assolutamente sì. Però gli adulti, però gli adulti, questo è un libro anche per adulti, però, diciamolo ma bene. Ma credo di sì, guarda, io non, prima di l'uscita di questo libro ero veramente preoccupato, perché dicevo, non ha un pubblico, cioè i ragazzini schifano Babbo Natale, gli adulti perché dovrebbero comprarlo. In realtà quello che sto vedendo è che bambini di 8 anni che se lo leggono in 2 giorni e gli adulti che si divertono molto. Io non so a cosa assomigli questo libro. Alcuni mi hanno detto che vi ha ricordato tipo La compagnia dei celestini di Benny o Roger Rabbit, un altro. Io non lo so, so che mi sono divertito moltissimo a scriverlo e che è una roba rara divertirsi a scrivere e che credo sia una storia divertente e però insomma c'è anche qualche riflessione sui nostri desideri e su che cosa vuol dire regalo. Verissimo. Io l'ho letto stanotte e sono arrivata a pagina 135. Vediamo cosa c'è. Ce l'ho davanti con i post. Stai parlando con una secchione incredibile, sì. Ci sono cose sottolineate addirittura, sì, delle sì, cose. Sì. Tra l'altro noi abbiamo parlato in apertura di Sabato del Villaggio con Aldo Vitali, direttore di Sorrisi, che ci ha raccontato un po' quello che succederà in TV nei prossimi giorni. Ci sarà una puntata speciale di Voyager in cui Giacobbo intervisterà Babbo Natale che spiega come fa a consegnare i regali tutti in una notte. Giusto. E anche tu lo spieghi e la spiegazione mi pare quella vera scientifica. Non la spoileriamo, però credo sia la stessa, cioè proprio quella scientifica. No. Sì, è proprio quella, non possiamo dire però quella. La spiegazione giusta è la mia. È quella. Ti ha incastrato a guardare Voyager. È quella lì. Senti, ma lo sfruttiamo un po', sì, Giacomo Papi. Allora, Giacomo Papi si diverte a scrivere romanzi perché deve intrattenere i bimbi. Ha un blog bellissimo, ha scritto un pezzo stupendo sulla paura, sui genitori che raccontano solo cose di paura ai loro figli sul Post, poi collabora, autore della trasmissione Che Tempo Che Fa, e quindi gli chiediamo qualcosa di politica, lo mettiamo un po' in difficoltà. Che bello, buon Natale. È la settimana di Maria Elena. È la settimana Elena. In cui tanti risparmiatori hanno ricevuto dei bei regali di Natale. Vabbè, e questo sì, lo so. Infatti dobbiamo affrontare un argomento purtroppo serio. Spinoso. Ecco, in Parlamento Maria Elena Boschi, siccome ha avuto questo problema del fatto che si discute di un suo possibile eventuale, probabile, ognuno dica quello che vuole, conflitto di interessi, visto che il padre era vicepresidente di una banca, Banca Etruria, che è andata male, si è difesa in Parlamento e la mostriamo alla radio. E ha difeso soprattutto suo papà. La mostriamo alla radio. Io amo mio padre e non mi vergogno a dirlo. Mio padre è una persona per bene. Io sono fiera di lui e sono fiera di essere la prima nella famiglia Boschi ad essersi laureata. E ricordo la gioia e la commozione di mio padre quando è venuto a Firenze ad assistere alla mia laurea. I miei fratelli più piccoli sono laureati, uno in economia e uno in ingegneria. E noi sappiamo quello che ha fatto mio padre per farci studiare. Lui, figlio di contadini, che per andare a scuola e diplomarsi ogni giorno faceva 5 km a piedi all'andata, 5 km a piedi al ritorno e 40 minuti di treno. Questa è la storia semplice, umile, ma forte della mia famiglia. Che dire? La commentate voi, Maria Elena? Possiamo mandare subito il contraddittorio. A voi subito Battista? Mandiamo Dibba, perché è stato anche il momento di Battista, Alessandro Di Battista, che non l'ha presa benissimo. Sentiamolo. Se anziché la Boschi vi fosse stata in epoca berlusconiana, la Polverini, la Gelmini, la Carfagna, sarebbero insorti tutti. Oggi per la questione della Boschi parla soltanto un intellettuale, Saviano, e voi rispondete a Saviano dicendo che il fatto che abbia sollevato il problema è il motivo è per vendere maggiori libri. Ipocriti! Onorevole Di Battista, si rivolga alla Presidente. Il ministro Boschi ha un conflitto grande, non come una casa, come una banca. Allora, come lo commentiamo? Io dico subito che il dibattito parlamentare è stato utile a tutti, comunque la si pensi. Di Battista, ovviamente, Movimento 5 Stelle, che aveva presentato la mozione di sfiducia individuale al ministro Boschi, ministro per i rapporti col Parlamento, che si è difesa. Giacomo, tu cosa dici? Per me, comunque la si pensi, è stato un dibattito parlamentare utile. E io forse non sono d'accordo con te, nel senso, figurati, ogni dibattito parlamentare è utile, quindi questo prima di tutti. Però a me stupisce che non si parli dell'unica cosa che è centrale della vicenda, e cioè su questo provvedimento del governo per salvare queste banche è giusto, sensato, oppure se non lo è. Per cui se ricade sui conti pubblici, e non dovrebbe ricadere perché appunto ci sono dei meccanismi sui soldi, insomma, pubblici, non dovrebbe ricadere, perché ci sono dei meccanismi che lo fanno ricadere sulle banche, sugli obbligazionisti, oppure no? Perché se è sbagliato, allora è evidente che è sbagliato. Se invece è giusto, il conflitto della Boschi non esiste, perché non è che si può fare una cosa sbagliata perché c'è il padre della Boschi. Detto questo, io sono, figurati, molto mi commuovo quando ci sono queste storie di primi laureati nella famiglia, di contadini, eccetera, ma non c'entra nulla neanche questo, a parte che un non laureato diventi vicepresidente di una banca non è che proprio mi tranquillizzi, ma detto questo non c'entra nulla quella mozione degli affetti, neppure della Boschi. Contemporaneamente Di Battista dice: Saviano ricorda il conflitto di interesse, ma non il merito, nessuno discute del merito, cioè ancora una volta la personalizzazione è così alta che bisogna discutere se questa Boschi, che è un personaggio particolarmente attraente per il pubblico, in quanto bella, in quanto ministro, giovane, eccetera, eccetera, voglia bene suo padre, non ami suo padre. C'è stato un provvedimento sbagliato o no? Qualcuno non ha vigilato su queste banche o no? Cioè, questi sono i temi di cui si deve parlare, infatti, altrimenti... Davide Allegranti, che è un giornalista che collabora con Più Testate, ha scritto su Twitter proprio: non ho mai sentito tante volte come in questi giorni la frase "non entro nel merito", che in effetti è un po' il problema. Sì, però... sembra che si stia parlando più della comunicazione che della notizia, che della dell'affare. No? È tutto l'affetto, lei... anche nella risposta della Boschi non è entrata nel merito. Lei non può dire: io amo mio padre, da una persona per bene. Io, per carità, beh, ha risposto su alcune delle ha detto che su alcune delle contestazioni dal punto di vista dei numeri, del numero di azioni che aveva la famiglia, ha risposto. Magari su altre Ma è vero che il padre è stato deposto dal governo, con un atto del governo, per cui se c'era questo conflitto di interessi non si capisce bene dove sarebbe stato difeso. Senti, ma personalizziamo un po' anche noi. C'è chi dice che questo discorso della Boschi è la prova che fra qualche anno lei è la prima donna possibile premier in Italia. È stato scritto, è stato detto, insomma, è un personaggio che, come dicevi tu prima, è grosso, esiste. Sì, però no? È grosso su un terreno, guarda, nel senso, io non ho un'opinione negativa di per sé della Boschi, la trovo anzi, quando la sento parlare, più preparata di molti ministri degli anni passati, con una storia politica più lunga della sua. Non è questo il punto. Il punto è che non si può, non trovo che sia una buona notizia il fatto che la politica debba passare così dalla personalizzazione come se fosse uno show televisivo. Quindi che la Boschi sia preparata o no, non è se è un personaggio o no, ma se è bravo o no. Invece tutto si gioca su questo, appunto, fa un discorso emotivo e quindi si presenta a essere premier. Io mi auguro che ci sia un premier donna, ma non perché è un personaggio, perché sennò eleggo Sberulino, non so dirti chi. Devo dire che il fatto che ne stiamo parlando a RadioTube, trasmissione nella quale poi rilanciamo i video che sono stati più condivisi e più visti in rete, dà già la risposta a tutto questo. Sì, è così, brava Marta. Giacomo Papi, I fratelli Christmas, un racconto di Natale. Io ti ho detto, sono arrivata a pagina 135, quindi stanotte mi leggo la seconda metà, così riesco a sapere come va a finire. Grazie Giacomo per essere stato con noi. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo una breve pausa. Radio Tube. E in questo sabato pomeriggio dedicato al meglio del sabato del villaggio e a Radio Tube stiamo riascoltando la puntata del 19 dicembre. Parliamo di cose serie. Sì. Giornalismo radiofonico sportivo. Sì, che c'è un premio tutti gli mondiale, anni. Mondiale. Sottolinea mondiale. Mica secondo BBC, terzo mica BBC. Tra Piazzale Lotto e Bisceglie. Certo. Secondo BBC, terzo BBC, ma... ma prima Radio 24 con... mostriamone un pezzetto alla radio. Che sai fare? Suono la tromba. Li abbiamo già i suonatori a bordo. Via, prossimo. Ma sì, ci si inventava proprio di tutto per mettere un piede a bordo di quelle navi che all'inizio del Novecento attraversavano l'oceano. Perché questa è una storia che va dall'Italia all'America, da un piccolo paesino dell'Abruzzo, Ripateatina, al ring del Madison Square Garden di New York. È la storia di Rocky Marciano, l'unico campione del mondo dei pesi massimi della boxe a ritirarsi imbattuto dopo 49 incontri, di cui 43 vinti per KO. Allora, svelo subito un segreto. Gli ascoltatori sono sempre convinti, a volte mi scrivono così, sono convinti che in radio siamo tutti amici. Non è vero, è come in qualsiasi posto di lavoro. No, ci sono le amicizie, ci sono le persone che non si sopportano, ci sono le persone che litigano. Ma dai! Invece, non prendermi in giro. No, ma non credere, a volte conducono anche la stessa trasmissione. È vero. Ci sono persone alle quali dentro Radio 24 voglio un grandissimo bene. Quindi non io esagerare, sono super contenta. Felice di poter festeggiare con gli ascoltatori di Radio 24 l'Oscar del giornalismo sportivo mondiale, cioè lo Sport Media Pearl Award a Olimpia, di Dario Ricci. Era ciao Dario! Ciao! Ragazzi! Troppo buoni! No, troppo no, buoni, Dario, Dario, che bella è stata quella sera. Sei finito, dov'è che sei andato a prendere il premio che poi io ho toccato? Qua dietro l'angolo, da Abu Dhabi, premiazione d'altissimo livello, organizzazione e anche diciamo giuria tecnico-giornalistica composta dai membri dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale, quella è la situazione che ci riunisce tutti, e prima edizione di questo che poi tu Marta lo riconosci bene l'atmosfera, era il vero e proprio Oscar, quindi c'è stata premi nelle diverse categorie per gli audio, devo dirti a un certo punto i tre candidati, i miei due rivali come avete ricordato avevano la maglietta della BBC, quindi insomma non proprio gli ultimi arrivati. A un certo punto si apre questa busta, The Winner Is, e diciamo che sì, il nome era il mio, ma la vittoria di Olimpia e di Radio 24. Ma poi scusami, la cosa più bella è che chi conosce Dario, no? E molti, diciamolo, cioè un po' di giornalisti, forse me compreso, un po' se la tirano anche, sono un po' prime, no? Chi conosce Dario sa che è una vittoria strameritata, perché tu invece sei tranquillo, fai il tuo lavoro, racconti le tue storie e tu sono arrivi sempre, lì. È un battutaro. Sì, c'è, beh, ovvio, è ovvio. In redazione. Tu arrivi, ovviamente te l'aspettavi, no? Di battere tutto il mondo. Allora guarda, io onestamente devo dirti che oltre a questo animo umile eccetera eccetera c'è anche una parte un po' sfrontata, diciamo, anche arrogante di me, quindi ecco, state a posto tranquilli con la coscienza. E allora devo dirti che sentiti, posso ammetterla a qualche giorno di distanza, sentiti i lavori, risentito il mio, perché questo racconto su Rocky Marciano aveva anche una perla dentro di sé, quella vera, sì, che era la regia dell'indimenticato Fabio Cantadori. Vorrei ricordarlo, è stato il momento più difficile per Radio 24 nel 2015. Fabio era uno dei nostri tecnici di regia, uno dei più amati perché era con noi fin dal 2000, che è scomparso improvvisamente nel mese di febbraio, che aveva 42 anni, era giovanissimo, è stato uno shock per Radio 24. Lui aveva avuto insieme a te la voglia di fare questo racconto. Perché poi Fabio era così come siamo tanti di noi, quando sentiamo delle cose che piano piano germogliano belle, allora la buona idea viene migliorata, no, dal dialogo col regista, come capita proprio nelle migliori situazioni. Così era capitato per questo racconto, e quindi quando io poi ho avuto modo di risentirlo con calma e risentirlo anche confrontato con i lavori di altissimo livello dei due colleghi, beh, vi confesso che mi ero preparato un foglietto per il discorso da vincitore. Perché pur non sapendo nulla ho detto, però hai detto questo non era male, adesso che lo risento guarda che non era male, per non sapere leggere né scrivere. Io sto qui che magari sul sito di Radio 24 c'è, certo. Adesso twitto la pagina perché così potete recuperarlo e riascoltare questo speciale, ma vogliamo parlare anche un po' dello sport di adesso? No perché parliamo dello, ma io posso fare una domanda un po' seria che non faccio quasi, se ti ma viene, boh. Dario, secondo te perché lo sport fin da subito è l'argomento più facile, io lo vedo con mio figlio di 7 anni, per cui si riescono a raccontare storie molto concrete ma anche molto dense di significato? Ma perché ce l'abbiamo dentro, perché non è un fatto opzionale, ma in realtà è il senso della sfida, del confronto, del dialogo con noi stessi, che poi il senso ultimo dell'attività sportiva è qualcosa dentro di noi e non fuori, per cui scatta immediatamente l'immedesimazione. Questa qua su Rocky Marciano, ad esempio, non è tanto e solo la storia di un campionissimo, ma è la storia, appunto, come sentivamo, di una generazione di italiani, di gente che quando vede i grattacieli, ricorderete quella scena che tra l'altro recuperiamo nel racconto di Nuovo Mondo, no? Il Nuovo Mondo straordinario, il film di Crealese, se non ricordo male, Marta. Quando sì. Queste persone vedono questi grattacieli dicono: ma cosa sono queste cose? Dice: ma dice, là ci abitano delle persone a 30 metri, a 40 metri. Dice: no, ma casa mia deve stare per terra, io là non ci vado a dormire. Perché erano pastori che dormivano abbracciati alle pecore. Quindi quando racconti questi episodi, lo sport è un pretesto, ma al tempo stesso anche poi senso. E questa settimana un grande sportivo, abbiamo tempo di parlarne? Sì, abbiamo ancora un grandissimo minuto, sportivo, il più grande filosofo vivente, uno dei più grandi filosofi del secolo dopo Eleni Herrera. Di chi tutti sia... Ma dai, che lo conosci anche tu, José Mourinho, perché avevi detto che comunque è anche un bel tipo perché di uomo. È un bel uomo, esatto, perché a me anche... piace tanto, perché è un gran bel uomo. Non José. È stato cacciato. José, poi José, che non... sai che sta invecchiando anche bene. Benissimo, José, sta invecchiando con la barbetta. Vabbè, mandiamo un video José. Qualunque a caso di José, tanto va bene. Vabbè, allora mostriamo un ecco. José a caso, eccolo qua. Sì. Ma io non sono Pirla. Ma che ormai è indistinguibile dalle sue imitazioni, perché poi ormai non sono Pirla, sì, che infatti. Bell'uomo. Ma perché parliamo di José? Ah, perché José non è stato cacciato, risoluzione consensuale. I Dink. Notizia del pomeriggio. Vabbè, ma anche nell'andare via un grandissimo successo, l'hanno elogiato dal come Chelsea. Più grande dal Chelsea. Sì, perché è passato da aver vinto lo scudetto a ultimo in classe, no, è passato quasi a zero titoli. Esatto, ha perso da Ranieri, cioè una cosa quasi impensabile. Come la Roma. Lo dici per Dario? No, beh, Dario è juventino. Ah, Dario è romano e juventino. Basta, allora cancelliamo tutta la puntata. Non meritava più l'Oscar. Dario è romano e juventino. Ah, ok, perfetto. Sì, vabbè, sì, cosa sì, è quindi... successo, Dario? Mourinho, però, resta Mourinho, no? Ma Mourinho chiaramente rimane Mourinho. Tra l'altro, insomma, a parte che passiamo dalla Perla al Pirla di Mourinho, ma va. Questa che no, è perché tutta se l'è preparata, no, è tutta la settimana. Perché tutta settimana che da quando lui ha messo il trofeo su sì, Facebook, che è una perla, che è una perla, no, Perla Award, io gli ho scritto per la Perla e il Pirla. La pronuncia perfetta di Marta che sì. Mette a riparo dai libri. Perché gliel'ho scritto vai. Subito la Perla e il Pirla. Non ce l'ho fatta a trattenermi, sono una ragazza così, Ma anche ricordato che José quel Pirla che insomma è milanese. Lo disse alla conferenza stampa d'esordio da tecnico dell'Inter, già dimostrando lui che tra l'altro nasce come allenatore interprete, perché era l'interprete al Barcellona di Bobby Robson, già dimostrando una conoscenza della lingua italiana straordinaria e mise subito fuori gioco tutti i giornalisti che nel periodo intervista rimanemmo tutti in adorazione delle gemme di Mourinho, quelle sì davvero dialetticamente insuperabili. Adesso non bastano, diciamo, poi come si dice, anche il vino migliore spesso prende d'aceto, il periodo madridista lo ha incattivito e adesso sembra aver perso un po' del suo fascino. Ragazzi, succede a però, tutti. Magari tu da interista, cara Daniele, speri che prima o poi torni. No, guarda, io sto benissimo dove sto, però certo, se Roby Mancio dovesse andare al Chelsea, come dicono, siamo qui in attesa. Guarda, con Mourinho è lunga la strada fino alla fine del campionato. Io lo dico, con Mourinho vado persino in B, ma non importa, perché lì è oltre lo sport, è come è Olimpia, capito? Dario, quando vai in onda Olimpia? Allora, tutte le domeniche alle 20:30, questa domenica, domani quindi riproporremo questa puntata così apprezzata, però insomma l'appuntamento con le verità e i miti dello sport è ogni domenica alle 20:30. Grande, grazie. Dario, non so se ti rivedo l'Oscar. In questi giorni in redazione, quindi ti faccio gli auguri così in diretta. Ciao Dario, a presto. Ciao. Passo sicuro per salutarvi, auguri a tutti. Un abbraccio a Dario Ricci, 17:46, un po' in ritardo, diamo la linea al traffico, a tra poco. Vai. Zero titoli. YouTube. messaggi via WhatsApp. A Carlo ci ha scritto cosa sta traducendo, una traduzione legale pesantissima da italiano inglese. Che roba. Ho detto che è bello Mourinho, un'ascoltatrice, secondo me un'ascoltatrice, preferisce, scrive, no, mi dice è più bello Low, nel senso di Rob Low o di Low Vale, non lo so. No, c'è un allenatore tedesco, quello lì. Ma sai tutto. Sei brava, un allenatore tedesco col ciuffo moro. Non è male, ha vinto pure i mondiali. Tu mi sottovaluti, ma io sono molto esperta di calciatori e di allenatori. Non ho idea di che cosa si parla in quest'ultima 15 minuti. No, aspetta, voglio fare un'altra saluto a Lorella da Bergamo, perché ci scrive al 349-88-666 un SMS che le teniamo compagnia il sabato mentre pulisce casa. Allora, la grande solidarietà delle casalinghe, anch'io, perché anch'io avrei da fare un po' da casa, ma sono qua a tenerti compagnia, Lorella. Però non ti preoccupare, non so se per malcomune mezzo gaudio, ma anch'io ho molto da fare. Allora, abbiamo gli ultimi dieci minuti li usiamo per raccontare. Volevi dirmi qual è la classifica, dove l'hai persa? Sì, no. ce l'ho, aspetta, l'ho twittata. Allora, perché io non riesco mai a vedere in diretta TV Talk, perché sono qua, perché e infatti però, i colleghi Bernardini, di TV Talk, bravissimo, sì, li salutiamo. Salutiamo Sebastiano Pucciarelli, salutiamo Cinzia, salutiamo Silvia. Io infatti li vedo sempre in replica. Oggi vedo su Twitter che hanno twittato la lista dei 10 show televisivi più twittaroli. Vince X Factor, di la verità. No, vince Sanremo? No. Neanche Sanremo? No, vince Amici 14. No, devo dire che però non so bene, perché adesso chiederò agli 14. Amici di TV Talk se è una cosa globale, perché poi alla fine Amici sono molte puntate, quindi c'è una giusto, è vero, sono anche più puntate. 1 Amici 14, 2 Sanremo 2015, 3 X Factor 9, tutta terzi, musica. Siamo terzi. 4 non è che hai partecipato, cioè no, hai cantato, hai fatto provino di cantato, no, perché non è il caso. Però stavolta mi ha preso. Mi ha preso una trasmissione musicale, mi ha preso gli Urban Stranger, hanno scoperto, si scopre, sì. So che gli One Direction, quarto posto, Uomini e Donne, quando scopri Uomini e Donne vai direttamente a fare il tronista, over. Quinto, The Voice, che adesso torna con la Carla, giusto, con Dolce Nera, con Emi Schilla, altro di Fedez. Bello, bello. Tu preferisci Fedez o Emi Schilla? Perché il mondo si divide. Non so se il mondo si divide, però un po' di campanilismo. Emi Schilla mio cittadino. Ah, giusto, è di Vim City, Vim Mercato. Ogni tanto lo incontro anche in giro. Ovviamente Bastian Contrario 6, Grande Fratello 14, 7 Pechino Express, 8 C'è Posta per Te, 9 Masterchef It, che adesso è ripreso. E sai cosa c'è al decimo posto? Al decimo posto cosa c'è? Che faccia? Esk Ita Eurovision Song Contest. No, una erano sera solo i tuoi sola. Tweet, sono bastati i tuoi tweet e quelli di Eddie Anselmi, e avete secondo intasato me una sera un sola l'evento non sportivo più seguito su Rai 2 nel 2015. L'anno. Decimo posto la classifica della social TV su Twitter, e secondo di questo posto, sei molto contenta. Oh, che bello, sai che ho già prenotato l'albergo a Stoccolma per maggio. Dove andate? A Stoccolma. A Stoccolma, ho già prenotato l'albergo per Stoccolma. Invece? Natale, c'è uno spot che io non avevo visto e che tu mi hai segnalato, e sono ancora lì che rido. Ah, te l'ho segnalato io? No, perché non riuscivo a capire qual è. È uno spot americano. Sì. Abbiamo sentito lo spot di Rosita Celentano e di Angelo Vaira prima sui cani, e questo è uno spot americano, credo sia di assicurazioni. Non lo so, perché non so di che cosa stai parlando. Ascoltiamolo. Don't thank me, thank the savings. You can't skip this Geico ad because it's already over. Geico, 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Allora, inizia lo spot online e dice questo è lo spot delle assicurazioni, lo so che tanto voi lo volete saltare come saltate tutti gli spot online, ma tanto è già finito. E senti il rumore? Allora, praticamente è una famigliola che mangia a tavola. Sì. E fanno un finto fermo immagine, perché in realtà sono loro che sono fermi. E c'è un cane che sale sulla tavola e mangia tutto, distrugge la tavola. Ah. E perché così nessuno clicca su skip. Perché? Perché tu stai lì a vedere cosa fa il cane. Adesso lo tweet. Non pensavo, non avessi segnalato tu. Invece allora ho l'idea di Cristian Goldoni. Ma non lo so, tu fai radio YouTube con qualcun altro. Tu, ci sono molte cose che mi devi spiegare. Comunque vabbè, però bello. Cioè bello. Perché uno vuole vedere che cosa distrugge, che cosa fa. E sì, quindi è resta. Bellissimo. Come sta il tuo cane? Bene? Non è ancora arrivato. Non è ancora... Io sto benissimo. Di un cinismo. Ma a Natale non diventano tutti più buoni? Dipende. Dipende, ho capito. Dipende. Va bene. Dipende. L'altra cosa che ti avrei segnalato senza farlo, qual è? Non lo so, ero convinta che me l'avessi segnalato tu, invece ero idea di Christian Goldoni. Bravo, che ringraziamo, Christian. Facciamo gli auguri. E infatti era bello lo spot. Molto bello. E per questo non me l'avevi segnalato. Sai che tu, adesso ci sono delle app. Ne hai parlato con Enrico Pagliarini delle app che tolgono le pubblicità, che ti fanno, capito, quella sì, roba? Sì, ne abbiamo parlato perché è una cosa molto controversa. È molto. Perché poi dopo come facciamo? Sì, uno dice son comodo perché uffa, queste pubblicità mi rompono, esatto. Io uso questo sistema per poi salvarle. Ma poi bisogna anche pagare un po' i contenuti a valore aggiunto. Sì, qualcuno deve pagarli questi contenuti. Esatto. Quindi ne abbiamo parlato anche in maniera molto, molto... Ma una canzoncina melodica per chiudere, l'hai pensata questa settimana? Sì, l'ho Qui devo l'ho fare pensata. Un saluto particolare, ricordati. Ok, allora, la canzoncina melodica, sentite il valore proprio... il valore profondo. Sentite, no, l'esecuzione, sentiamo. Eccola qua. Avete cantata male, ma male, ma male, ma male. No, a me non pare. Ma mi sanguinano le orecchie. No, ma no. Mia, che brutta. Però, sai chi sono? È il team di sono? Twitter Italia. Oh. Che ha cantato e suonato Last Christmas. Sì, e hanno donato, non so se vale ancora, un euro per ogni retweet alla Onlus Phyllis Francis. E siccome sulla rete l'orrido va molto. No, carini. Allora facciamo una cosa, io l'avevo già retweetato. Adesso sì. annullo il retweet. E lo retweet, non so se può valere due volte. E io lo posso fare anche io? Esatto, adesso l'ho retweetato dal Potete mio account. Potete farlo anche voi da casa, visto che così in Twitter Italia è costretto a donare un sacco di soldi. No, ma lo bravi, farà molto bravi, volentieri. Bravi, bravi. Questa cosa è bellissima. Io lo retweeto, cantano più o meno come me e quindi c'è anche una sorta di bravi. Solidarietà. Allora, sappi che lo spot l'avevi segnalato tu perché aveva vinto il premio della creatività e la quindi, classifica l'avevi mandato tu, ma non te ne eri accorto. Questo si dimostra che la mia età ormai è incipiente, come la mia capigliatura. Ma sì, allora. Ciao. Ultimo minuto, grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Christian Goldoni in redazione, auguri Daniele, auguri agli ascoltatori. Auguri Marta!